quanti gesti senza rendercene conto, che rivelano agli altri noi distinto. Consapevole io provo a starci attento, però tradisco la natura del mio accento. Leggo un libro sull'elogio al tradimento, quindi dubito ci possa starmi accanto. Sotto esame minuzioso, molto attento, la disamina però mi applica uno sconto. Prendo con cura tutte le pillole, mi bevo affettuoso le tue frottole, vesto con classe certe bambole, rompo però discreto altre scatole. Stivo i pensieri dentro regole, mangio nocciole con le fragole, conto altri nei fra le costole, però insisto a restare disponibile. Termoionica a suo tempo fu la mia valvola, affrontai un ladro in casa con la sciabola. Oggi invece gli offrirei un nero d'avola, articolare nel ginocchio però stenta la capsula. Prendo con cura queste altre pillole, mi bevo affettuoso le tue frottole, indosso sospeso le mie bombole, rompo però discreto altre scatole. Ho ricomprato un po' di quella verve ironica che si è girata sotto sopra la classifica, meno complessa oggi origina l'armonica, dopodiché però sarà sempre meno ascetica. Metterò l'analisi logica dentro una favola, farò il pieno di gas nobile intorno a tavola. L'ispirazione poetica sarà un punto debole, la dispensa linguistica però troverò facile. Prendo con cura tutte le pillole, mi bevo affettuoso le tue frottole, vesto con classe certe bambole, rompo però discreto altre scatole.